Italia in controluce. Oggi è il 22 novembre, Italia in controluce, due edizioni, 6.30, 13.30, reportage e inchieste. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Che cosa si è fatto a distanza di un anno e mezzo dal terremoto? Sabato 20 novembre 20.000 persone hanno chiesto la ripulitura delle macerie e la ricostruzione del centro storico completamente distrutto dell'Aquila. Quel lavoro che gli organi istituzionali preposti alla protezione civile hanno più volte promesso e mai mantenuto. Il reportage dall'Aquila di Sabrina Pisu. SOS, l'Aquila chiama l'Italia e l'Italia risponde. Un grido che infrange il silenzio, quello raccolto da 20.000 persone arrivate da tutto il paese con oltre 40 pullman. Il corteo sfila da Piazza d'Armi, luogo ormai della memoria che ha ospitato dopo il terremoto la tendopoli più grande, fino al cuore della città. Distruzione, ricordi e dolore nelle strade della zona rossa dove le lancette sono ancora ferme alle 3.32 del 6 aprile 2009. È una giornata di pioggia e freddo, i passi sono scanditi dal rumore dell'acqua che non smette di cadere. La bandiera cittadina svetta alta sopra le teste, coperte dai caschi da lavoro. I colori dell'Aquila, il nero e il verde, il buio e la speranza sono i colori del presente e del futuro, il segno di un'identità che i cittadini non vogliono perdere. Il corteo sta per partire, ad aspettare c'è anche Domenico che ha 71 anni. Sono nato e cresciuto all'Aquila e intendo morirci il più a lungo possibile, ma intendo morire a questa città, augurandomi, anche se non credo che me lo ricorderò, che questa città riviva. Una città in agonia, l'economia langue, 1.500 aziende chiuse, la cassa integrazione cresciuta dell'800%. Dopo 19 mesi manca ancora una legge che dia prospettive e fondi certi. Il progetto case voluto dal governo ha dato alloggio a meno di 15.000 persone su 67.000 sfollati. Un giovane indossa un cartello con scritti i numeri del miracolo aquilano. Miracolo è 20 mesi con casette da 2.700 euro a metro quadro per 14.000 persone, basta, è finito qui. Tutto il resto è come 20 mesi fa, come alle 3.32 del 6 aprile 2009. Ci sono 18.000 persone in cassa integrazione e ora si dovrà tornare a pagare le tasse. Questo 33enne fa l'insegnante e lavora a Roma. Quindi ogni mattina mi alzo alle 4, vado a Roma e torno qui. Io l'Aquila non la lascio. L'Aquila è un centro storico, è vita, non è il progetto case, questa è la distruzione di una identità. L'Aquila abbandonata e barattata con 19 nuovi quartieri, senza anima e connessioni con il territorio, nuovi insediamenti che non hanno nessuna provvisorietà, che hanno distrutto la vita sociale. Andrea, che ha 36 anni, prima di quel 6 aprile viveva a pochi metri dal centro della città. Oggi ha un alloggio nel progetto Case ad Arischia, un paese a 17 chilometri. Casa non si vede proprio nessuno spiraglio per ricostruirla, ti buttano a 20 chilometri da casa tua, vite di sacrifici buttate al vento, così, in 20 secondi e senza prospettive, questa è la verità. Sua madre, come tanti altri anziani, si trova ancora negli alberghi della costa. Mia madre, 75 anni, vive ancora in un albergo, invalida al 100%. Non l'hanno neanche potuta spostare in un albergo che avesse il ristorante nella stessa struttura. Deve fare diversi metri per andare al ristorante, attraversare una strada molto trafficata. È invalida, sta con le stampelle. Lei aveva una casa di proprietà all'Aquila, naturalmente inagibile per il terremoto, non le hanno dato nulla, neanche un centesimo, nulla, neanche uno straccio di casa dove andare a vivere, niente. Nonostante tutto, Andrea, la sua città, non la molla. Se si continua così è finita, finita, finita. Io non la mollo sta città perché è la mia vita, è come se ti taglio un braccio e una gamba, non ci riesco a vivere senza l'Aquila. Non so i miei figli che faranno. Nel corteo sfila il futuro dell'Aquila. I più giovani vogliono risposte, racconta Mattia, 17 anni, studente liceale. Noi siamo ovviamente il futuro di questa città. Un giorno questa terra sarà nelle mani nostre e se noi stessi non abbiamo garanzie sarà un male per tutti, non soltanto per noi stessi ma anche per il territorio che non ripartirà. I familiari delle 309 vittime del sisma portano uno striscione nero listato al lutto. 52 sono gli studenti che hanno perso la vita quel 6 aprile. Prima di quella quella notte ce n'erano 28.000. Gli iscritti dopo il sisma sono 22.000. La voglia di rimanere degli studenti è stata incoraggiata dall'iscrizione gratuita per 3 anni. Mancano però strutture e alloggi, come denuncia Andrea Fidanza, 22 anni, studente di medicina e consigliere di amministrazione dell'università. Dunque, l'Università dell'Aquila, fortunatamente come condotta, è ripartita già da subito, possiamo dire, da fine maggio del 2009. Purtroppo però la regione continua ad ignorare tutti i problemi degli universitari, quindi non abbiamo mense, non abbiamo i trasporti e soprattutto non ci sono gli alloggi. Il corteo attraversa via 20 Settembre e si avvicina alla casa dello studente, dove sono morti 8 ragazzi ventenni, una strage che si poteva evitare perché gli studenti avevano denunciato da subito le crepe sui muri, ma nessuno li ha ascoltati. Il corteo degli universitari sfila anche per loro. È stato un nostro dovere rimanere qui e continuare a lottare per i nostri diritti, anche a nome loro. C'erano nella casa dello studente dei rappresentanti degli studenti anche. Stiamo per passarci, tra poco la incontreremo. E secondo me un'offesa ancora più grande a loro è il fatto che la casa dello studente, che è stata ricostruita oggi con fondi pubblici dei contribuenti della Lombardia, invece di essere gestita pubblicamente, è gestita dalla Curia Aquilana, con chiamate dirette, è privata praticamente, con i prezzi di affitto che li fanno loro e che ci mettono a vivere gli studenti tramite le proprie diocesi. Non c'è quindi un bando pubblico ufficiale come c'era prima del terremoto. Arrivati a Piazza Duomo, sotto il tendone si raccolgono le firme per la petizione a favore della proposta di legge popolare sulla ricostruzione. Tante le persone venute da tutto il paese. Stefano Sauncella è arrivato da Venezia per sostenere questa legge popolare. Una legge che parte dal popolo è una legge anomala in Italia, perché non abbiamo mai avuto esempi di questo tipo. L'Aquila ha bisogno di questa legge per dare semplificazione, certezza alla ricostruzione. Tutti a sostenere una legge nata tra la gente, discussa nei lunghi incontri del presidio permanente dei cittadini. Nessun commissario e coinvolgimento diretto degli enti locali. Tra i punti cardine del testo, spiega Ettore Di Cesare del presidio di Piazza Duomo. Farla finita con la logica dei commissariamenti, ma affidare la ricostruzione agli enti locali che sono stati eletti democraticamente dai cittadini. Avere la certezza di fondi con un flusso definito negli anni. Noi vogliamo pianificare e immaginare il nostro futuro e non possiamo farlo se non abbiamo la certezza di avere i fondi necessari. Sotto il palco tra la gente si vedono alcuni politici, il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro, l'esponente del PD Enrico Letta, ma sul palco oggi non c'è spazio per loro. A parlare sono gli aquilani e gli italiani che hanno sete di verità e giustizia. Antonietta Centofanti è la zia di Davide, il più giovane a perdere la vita col crollo della Casa dello Studente. Oggi è la presidente del Comitato dei Familiari delle Vittime della Casa dello Studente. Beh, questa è una giornata dolorosa, ma anche una giornata molto bella, perché ha visto insieme tante emergenze con un comune denominatore, comunque quello della prevenzione e della sicurezza, che sono due temi che non hanno casa in questo paese. Da San Giuliano di Puglia alla ThyssenKrupp c'è un'Italia che aspetta giustizia. Daniela Rombi è arrivata da Viareggio, dove ha perso la figlia nel disastro provocato dall'esplosione di un vagone carico di GPL. È necessario costruire una rete fra tutte queste tragedie annunciate che ci sono state dal Moby Prince, ThyssenKrupp, San Giuliano, L'Aquila, Viareggio e tante altre, perché altrimenti siamo soli e soltanto unendoci e facendo sentire la nostra voce forse per i nostri figli riusciremo a fare qualcosa. Dobbiamo essere tutti insieme a volere la verità, la giustizia e la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro e da ogni parte. Tra la folla accanto al palco c'è anche Giulietto Chiesa. Sono venuto all'Aquila perché questa città è un emblema di cos'è in questo momento l'Italia. Purtroppo l'Italia è in rovine come l'Aquila. La cosa più terribile che io percepisco è che in realtà l'immagine di questa città in Italia è completamente deformata. La gente pensa che l'Aquila è stata ricostruita. È la cosa che mi fa venire i brividi, perché è il massimo della virtualità. Io vedo una città che è completamente distrutta. Com'è possibile che noi viviamo in una situazione in cui la maggior parte della popolazione popolazione di questo paese non sa che cos'è questo paese. Questo è il dramma maggiore. Nella folla che cinge la piazza ci sono i gonfaloni di quei comuni che hanno scelto di aderire alla manifestazione del popolo aquilano. Peccato per l'assenza del centrodestra, un corteo pro l'Aquila e non contro il governo, dice il sindaco Massimo Cialente. Ma oggi l'unica voce che si leva è quella dei cittadini che non vogliono arrendersi e che dopo la manifestazione di sabato hanno una forza in più, perché oggi non siamo soli, si legge in un cartello che procede accompagnato dal ritmo delle bande di strada. La seconda edizione di Italia in Controluce, sul mio blog radio24.it trovate i post anche di questo programma. Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna domani alle 6:30 su Radio 24.